Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Buongiorno a tutti, lunedì 18 gennaio, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici tra la città e il carcere, e rieccovi qui con noi per inaugurare la ripartenza nella prima settimana di gennaio per noi di Liberi Dentro e Duradio, che come sapete è questa trasmissione radiotelevisiva iniziata ormai 9 mesi fa, quindi un bel traguardo che fa da ponte tra la città e il carcere, dove tanti di noi, tra volontari, assistenti spirituali, insegnanti, prestano il loro servizio anche di volontariato e di lavoro vero e proprio. La voce che vi arriva in conduzione è la mia, Caterina Bombarda, e però non sono sola perché qui con me c'è un ospite, Ignazio De Francesco. Buongiorno da Montesole. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, diciamo anche in arabo, per quelli tanti che sono, si trovano in questo momento provvisoriamente nelle case circondariali di Bologna della regione. Salam aleikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. E poi sappiamo che ci sono anche tante altre nazionalità, ci sono i romeni, ci sono gli albanesi, ci sono i moldavi. Il carcere è una comunità multietnica, multireligiosa, al cui servizio noi ci troviamo col nostro programma. Esatto. Ignazio, prima di partire con la nostra cronaca bianca che vi accompagnerà, diciamo, per questi 4 mesi di trasmissione, vorrei condividere con te una cosa particolare di questo programma, no? Perché se la radio e la televisione in qualche modo parlano sempre da luoghi fisici, non fisici, connettono le distanze, ci fanno sentire parte di una comunità, noi però in aggiunta a questo abbiamo il fatto che sappiamo dove stiamo parlando, cioè per esempio io so già la platea che ho di fronte in questo momento e mi immagino un luogo fisico della Dozza. Quale luogo immagini tu? Ma anch'io, la casa, per esempio l'area pedagogica, quando si parla di carcere si pensa solo stanze di detenzione, corridoi, sbarre, così, una casa circondariale è anche la sua scuola, che è grande, ci sono aule, ci sono le lavagne, ci sono le lim, e quindi noi siamo molto legati a questa parte del carcere, perché è la parte dove si fa cultura. E questa è anche una parola che diciamo sia a quelli che in questo momento temporaneamente si trovano reclusi in una casa circondariale, ma anche a chi ci ascolta dalla città: il carcere non sono solo sbarre, il carcere è anche cultura, e quindi è cultura di alto livello, e quindi è un tentativo di parlare anche alla città delle tante culture, delle tante idee buone che circolano nel carcere. Bene, quindi parlando di questa cultura di alto livello che interessa il carcere e la cittadinanza, oggi tu hai il compito di portarci in giro per il mondo. Quindi dove siamo con te oggi? Ma dunque ho pensato di prendere anzitutto, di partire dall'Algeria. Dall'Algeria una notizia, useremo anche un po' la lingua araba, che non è solo l'unica lingua, ma tanto per far sentire anche un po' di arabo, una notizia che ci viene dal giornale Al-Masa Al-Jazairi. Allora dice in arabo: Iqbal da'if min kibarissin ala fusul mahu al-ummiya. Cioè è un progresso debole negli sforzi di cancellare, ridurre l'analfabetismo in Algeria. C'è una persona che è molto conosciuta in carcere, Fatima, che è una mediatrice culturale algerina, berbere, che mi dice che una perla dell'Algeria, e anzi se qualcuno ci ascolta, dei ragazzi o delle ragazze che viene da lì, magari ci scriva qualcosa su Blida, se conosce, che si trova a 45 chilometri da Algeri, ed è un posto straordinario, ma dove si fa uno sforzo anche per cancellare l'analfabetismo. Dei kibarissin, cioè degli anziani, purtroppo per il Covid ci si è dovuti un po' fermare. Su 600 iscritti ai corsi per ridurre l'analfabetismo, solo 60 hanno partecipato, ma comunque un incoraggiamento a tutti, anche quelli che ci ascoltano, che non sanno ancora leggere o scrivere: dai, forza, se impara uno di 70 anni può imparare anche un ragazzo, una ragazza di 20. Grazie Ignazio. Lanciamo subito il primo brano musicale della mattina. Abbiamo con noi Fairuz. Abbiamo Fairuz, una grande cantante libanese, una degli uccellini, ecco, del mondo arabo, che iniziamo con una delle più sue celebri, canzoni, che è Chi fa Kinta, Come stai? Musica. شفتك سنت تذكر وقتها آخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلأ شفتها كيفك انت ملا انت تذكر آخر سهرة سهرتها عندك كان في وحدة مضايق منك هيدي أمي بتعتل همي منك أنت ملا أنت كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد كيفك عم بيقولوا صار عندك ولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد كيفك انت ملا انت بيطلع Dopo aver ascoltato questo bellissimo brano di Fairuz, questa cantante appunto libanese che tradotto in italiano significa come stai, prendo anch'io una notizia da Repubblica, siccome è recente l'appello di Liliana Segre e Mauro Palma sul vaccino ai detenuti, per chiedere, in base al piano welfare, che, i carcerati vengano inseriti tra i primi, tra le categorie da vaccinare con priorità, contro il Covid. La senatrice è da sempre sensibile a questo tema, anche dei detenuti, perché nelle sue frequenti visite al carcere milanese di San Vittore, città dove lei vive, ha sempre ricordato con riconoscenza la generosità dei detenuti che, in passato, quando lei da piccolina venne prelevata per essere portata al campo di concentramento di Auschwitz, la salutavano, lei e il suo papà. Salutandola mentre saliva sul treno e gli unici, insomma, i detenuti a farlo, a capire quanto era difficile quel momento per gli ebrei, durante la Seconda Guerra Mondiale. E Segre ha sottolineato che appare necessario comprendere che anche le persone affette da fragilità o comunque in condizioni tali da comportare una elevata complessità assistenziale, hanno diritto a questo vaccino prima che altre categorie, per i motivi che tutti sappiamo. E a proposito di generosità, Ignazio, questa settimana con Galateo Arabo parliamo di. Generosità, o in arabo si dice karama, e come tutte le parole, anche nelle nostre lingue, karama ha delle sfumature bellissime, perché karama vuol dire generosità, ma vuol dire anche dignità. Il karama, l'insania, è la dignità umana, ed è uno dei nomi di Dio, secondo la tradizione araba islamica, che va benissimo anche per i cristiani, Karim. È il generoso, è il nobile. Allora l'idea è che l'uomo generoso è anche un uomo che ha dignità, mentre il bakhil, che sarebbe invece l'avaro, è un uomo anche che disonora se stesso. Allora daremo alcuni flash questa settimana sulla generosità. Il primo è questo, lo dico in arabo: In kunta turidu hakkan antakuna kariman, faleika antuti fakat li annaka daiman tu'ti min al qalb turidu l'ita, walaysa li anna ladeika ashya khafiyan turidu shay'an fil muqabil. Cioè, se tu vuoi essere generoso, devi dare dal cuore, perché vuoi dare e non perché hai un motivo segreto. Per esempio, do a un compagno di sezione, faccio un favore a qualcuno per avere il contraccambio. E invece, se oltre alla generosità volessimo parlare di buon umore, cosa ti viene in mente? Sempre in Ma, arabo. buon umore, sì, abbiamo raccolto qualche cosa di Juha, che è un po' il Pierino, la peste degli arabi. Ogni paese, ogni tradizione ha la sua macchietta, dove è sempre un po' stupido e un po' Furbo. furbo. Allora, per esempio, vediamo un primo caso lo leggo anche questo, uso in arabo, per far sentire anche questa lingua, lo traduciamo in italiano. Allora dice: Kana Juha rakiban himarahu hinama marra bi badil qaum wa arada ahaduhum an yamzah ma'hu faqala la ya Juha laqad araftu himaraka wa lam arifka faqala Juha hada tabi'a li anna al hamir ta'rifu ba'daha. Allora dice che Juha stava camminando sul suo, viaggiando sul suo asino. C'è sempre l'asino per Juha. Quando qualcuno lo voleva prendere in giro, c'era della gente, gli dice: Ehi Juha, io conosco bene il tuo asino, ma a te non ti conosco. E Juha risponde: Ma questo è naturale, perché gli asini si conoscono tra loro. Molto divertente, molto carina. E tra l'altro, Juha è stato anche uno dei protagonisti del nostro laboratorio Ponte di Storie che abbiamo fatto alla Dozza. E lo dico brevemente: Ponte di Storie è stata un'esperienza con i carcerati appunto della Dozza, dove ci siamo raccontati delle fiabe per diversi mesi ed è venuto fuori questo personaggio. Quindi, fiabe della nostra infanzia, anche io mi sono ricordata fiabe della mia infanzia, sono venute fuori quindi anche le nonne, le figure, le zie, i genitori. Che ci hanno raccontato un po' le fiabe, quindi tra questi anche Juha. Ma adesso ci salutiamo ancora, diamo spazio a un altro brano musicale e poi ci rivediamo di nuovo con me e un ospite. Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri, le strisce delle lumache nei loro gusci, capire tutti gli sguardi dietro agli scuri. E lo vorrei, perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei ed io. Solo sempre viaggiare, scoprire quello che intorno c'è da scoprire, raccontarti e poi farmi raccontare il senso d'un rabbuiarsi o del tuo gioire. Vorrei tornare nei posti dove sono stato, spiegarti di quanto tutto sia poi diverso. Eccovi sulle note musicali di Vorrei, brano di Francesco Guccini. Do la parola a questa nuova rubrica che ci accompagnerà per questa ripartenza di Eduradio. Loro sono Lorenzo e Fabio, che lavorano per ASP, che è l'Associazione Servizi alla Persona del Comune di Bologna. Infatti, a partire appunto da gennaio, ci siamo messi in collaborazione con ASP Città di Bologna per avviare una collaborazione duratura al fine di dare voce a tutti gli attori protagonisti della Casa Circondariale Rocco D'Amato, tra le realtà esterne che vi operano, ma anche gli sportelli, i servizi di volontariato, i mediatori. Quindi ascoltiamoli e vediamo cosa ci raccontano oggi. Ciao, io sono Fabio. E io Lorenzo. Questa è la prima pillola sul mondo del carcere che va in onda qui su Liberi Dentro Eduradio. Oggi parliamo con Monica Brandoli, la responsabile dei servizi alla grave emarginazione adulta. L'estratto è stato realizzato in collaborazione tra Tecnotrade e ASP Bologna. Vai con la pillola! Quali sono i servizi messi in campo da ASP per il corretto reinserimento dei detenuti in società? Sì, intanto bisogna dire che ASP, su mandato del Comune di Bologna, ASP è l'azienda per i servizi alla persona del Comune di Bologna, ha molto a cuore tutto quello che attiene all'esecuzione penale. La cosa che ASP vuole fare e cerca di fare è quello di connettere tutto quello che accade fuori e dal carcere con quello che invece accade all'interno del carcere. Quindi diciamo che tutti i servizi hanno la funzione, ed è la funzione principale dell'ente locale, di lavorare essenzialmente sul dopo, sul fuori, quindi su tutto quello che accade una volta che la persona è uscita dal carcere. Ma certamente ci preoccupa molto anche quello che accade quando la persona è all'interno del carcere, ed è per questo che siamo in stretta connessione con la direzione della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna, ed è anche per questo che abbiamo al suo interno un servizio che è lo sportello di mediazione linguistico e culturale. All'inizio questo sportello era solo per le persone straniere, ma da qualche anno invece lavora anche con i nuovi giunti, quindi con le persone che accedono al carcere per la prima volta, anche per le persone italiane. Ed ha proprio questa funzione di capire cosa è successo fuori, di spiegare quali sono le opportunità, i servizi che le persone possono richiedere in carcere, i loro diritti, ma anche una volta che le persone stanno per uscire, andare a lavorare su tutto quello che è il momento dell'uscita e in particolare i 6 mesi all'esterno dopo l'uscita. È ovvio che per fare questo significa lavorare tanto anche sul reinserimento lavorativo, ed è per questo che ASP lavora, ed è un gioco di parole, sul lavoro, e quindi cerca di costruire delle occasioni, in particolare dei tirocini formativi, che vadano a recupero di quelle che sono le competenze che ogni persona detenuta ha e aveva anche prima dell'ingresso in carcere o che ha acquisito all'interno della situazione detentiva, ma anche di esplorare quali sono i desideri delle persone una volta usciti, e quindi cominciare a lavorare su quelli e a individuare le aziende che possono accoglierli per un tirocinio e magari anche proporre un vero e proprio inserimento lavorativo. Ah, Diciamo, una persona detenuta che di sua iniziativa vuole conoscere queste opportunità e si trova all'interno del carcere, a chi si deve rivolgere concretamente, che tipo di domande deve fare per avvicinarsi a queste opportunità lavorative nel momento in cui decide di iniziare a interessarsi di questa opportunità di reinserimento? Beh, in carcere ci sono gli educatori. Sono gli educatori dell'amministrazione penitenziaria, quindi certamente con loro però non sono personale dipendente da ASP, non abbiamo noi una convenzione con loro, sono proprio del Ministero di Grazia e Giustizia. E questo non toglie che tutti i detenuti possono fare accesso allo sportello dei mediatori e lì spiegare, raccontare, e saranno poi i mediatori a quel punto che si interfacceranno con gli educatori dell'amministrazione penitenziaria per cercare di esplorare quali sono le possibilità che quella persona ha a disposizione, ma anche lavorare un po' più nel dettaglio di queste possibilità, facendo dei colloqui individuali, quindi andando a lavorare in modo più diretto su ogni singola persona. Dobbiamo pensare che lo sportello certamente ha come azione principale quello di appunto connettere, no? Di accogliere, di tradurre anche, no? Ci sono alcune situazioni in cui le persone straniere non sanno la lingua e quindi è necessario anche solo spiegare quali sono le regole del carcere, come loro possono accedere ai loro familiari e fare la mediazione con i loro avvocati difensori. Però certamente lo sportello deve essere utilizzato anche per tutte quelle richieste altre che attengono meno, diciamo così, alle regole del carcere, ma che invece sono più individuali. E poi i mediatori non potranno essere loro in prima persona a lavorarci, ma possono attivare le altre figure che sono presenti all'interno dell'amministrazione penitenziaria. We'll be right back. ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Vi ricordiamo tra l'altro che se avete delle domande particolari cui vorreste avere delle risposte precise, potete scriverci direttamente alla redazione di Liberi Dentro Eduradio e cercheremo di rispondervi in maniera netta per le prossime puntate, le prossime pillole, i prossimi episodi. Ciao! Ciao! E rieccovi dopo questo brano musicale, ci salutiamo per ridarci appuntamento a domani, sempre ore 9:30 su Radio Città Fujiko, mentre alle ore 10:30 sul canale 636 di Teletricolore. L'ospite di domani mattina sarà Rosanna Sirignano, che ci parlerà del significato della parola Islam. E io vi invito sempre a scriverci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure alla posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Un saluto a tutti quanti, a tutte quante, da tutta la nostra redazione, un ringraziamento particolare a Matteo Parisini per il montaggio audio-video e noi ci rivediamo domani sempre qui a Liberi Dentro.